Come detto, passiamo da Torino a Milano, ritorniamo un po' in città e parliamo di quello che accade nella metropoli. Ci colleghiamo con un compagno, con uno studente medio, per parlare un po' di quello che è successo ultimamente a Milano nelle scuole superiori e non solo. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ciao a tutti e tutte. Ciao, ciao, grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Allora, niente, volevamo partire un po' dalla situazione insomma, che si è creata a Milano nell'ultimo mese con il ciclo di occupazione nelle varie scuole superiori. Sì, beh, appunto, abbiamo visto un po' una ripresa rispetto a quello a come ci eravamo lasciate l'anno scorso. L'occupazione si conferma ancora una volta come il metodo principale di azione e di lotta studentesca proprio perché prende in considerazione l'ambiente primario che studenti e studentesse vivono tutti i giorni, che è appunto la scuola. Quindi prendendo possesso poi della scuola la si reinventa rimanendo poi in realtà all'interno di quello che è lo stesso spazio che invece normalmente viviamo anche in maniera, devo dire, non troppo buona, ecco, mettiamola così. Sì, se ci volevi fare, se volevi farci al volo un elenco più o meno delle occupazioni dove sono state a Milano, so che, perché sono venuto anch'io a parlare di DAX, sicuramente è stato occupato il liceo Manzoni, ma ci sono anche altre scuole che hanno iniziato Sì, questo percorso poi di. c'è stato il Severi Correnti, che in realtà è stato il primo, e quello è stato quello che ha aperto un po', diciamo, la scia. Insieme al Manzoni ha occupato anche il Boccioni, poi c'è stato il Caravaggio, che ha occupato recentemente. Insomma, ci sono state diverse, meno, diciamo, dell'anno scorso, però, appunto, secondo me le occupazioni di quest'anno hanno avuto un po' il pregio di essere molto ben organizzate e molto coese proprio a livello studentesco. Questa è stata, secondo me, una cosa che c'è stata un po' in tutte le scuole di Milano. E diciamo che poi, dopo questo ciclo di occupazioni, si è arrivati al giorno del 3 marzo con il corteo di Fridays for Future che ha visto un po' di persone in piazza. Non lo so se volevi darci un po' una panoramica rispetto a come è stato percepito questo momento di piazza e come magari la pratica dell'occupazione è riuscita un po' a influenzare la visione di questa giornata. Sì, io vi parlo direttamente dalla piazza, nel senso che appunto adesso siamo in corteo, stiamo raggiungendo la fine del percorso. E sì, sicuramente c'è una partecipazione molto alta, ci sono tanti studenti e studentesse e sicuramente l'occupazione hanno aiutato proprio perché l'occupazione ci ha permesso di parlare di temi di cui normalmente a scuola non si parla e quindi anche quello dell'emergenza climatica e soprattutto delle sue cause. E quindi appunto il fatto che tante persone siano qua oggi, secondo me, è proprio frutto anche proprio di questo percorso che è partito ovviamente ben prima di questa data. Sì, e quindi diciamo oltre le aspettative, che a quanto pare c'era un po' di remore sui numeri, cioè gli studenti e le studentesse hanno risposto bene oggi a Milano Sì, scendendo in devo piazza. dire che effettivamente la risposta è andata, insomma, cioè, insomma, sta andando bene e appunto non ce l'aspettavamo così partecipata come cosa, ma evidentemente è un tema che proprio riguarda e gli studenti e studentesse lo sentono proprio personalmente ogni giorno. E quindi questo è molto importante e speriamo anche che insomma, questo momento insomma, del corteo del Fridays for Future possa essere anche un momento di rilancio poi per le 4 giornate di DAX. So che come rete studentesca vi state provando ad organizzare per organizzare uno spezzone appunto degli studenti, il ricordo del nostro compagno che è stato assassinato 20 anni fa da parte dei fascisti. E quindi non so se avevi voglia di dirci almeno due cose riguardo alle 4 giornate di DAX in ottica studentesca o comunque un rilancio, e se volete farvi un po' di pubblicità, noi ne siamo molto contenti dello spezzone degli studenti che ci sarà il 18 marzo. Certo, sì, noi appunto quest'anno abbiamo voluto mettere molto impegno, molta attenzione alla tematica di DAX, proprio perché crediamo che anche a livello simbolico il ventennale possa rappresentare un po' appunto diciamo, non so come dire, un passaggio proprio della memoria, una trasmissione che appunto che poi alla fine saremo noi che dovremo portare avanti il ricordo di Dax e in generale di tutti i compagni e le compagne uccise nella lotta. Quindi proprio per questo lo Spezzone Studentesco si propone in questo senso, cioè proprio come cinghia di trasmissione, diciamola così, fra appunto il vecchio e il nuovo. Poi la tematica del corteo, che è appunto quella sostanzialmente del legame indissolubile che c'è fra antifascismo e anticapitalismo, ci riguarda in particolar modo se pensiamo ad esempio a quella che è l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, nel senso che alla fine è un tema che insieme appunto a quello di Dax, a quello dell'ambiente, in realtà poi è stato anche proprio un soggetto importante nelle discussioni delle occupazioni che si sono appunto che sono appena passate. E insieme a questo poi abbiamo visto i recenti fatti di Firenze, l'aggressione squadrista e la non risposta, se non quella vergognosa, del ministro Valditara, che appunto ci insomma sicuramente c'è materiale sul quale lavorare. Bene, perfetto, noi siamo molto contenti, noi di Radio Tagadà, ma penso anche proprio tutta la redazione di Onda d'Urto, di sentire questa carica da parte delle componenti giovanili nello scendere in piazza. Scusami, sì. Ho un problema, non ti sento benissimo, perdonami. Non mi senti benissimo. Va bene, no, comunque adesso stavamo... Adesso sì. Sì, sì, stavamo finendo, dico, noi siamo molto contenti noi di Radio Tagadà e penso anche tutta la redazione più in generale di Radio Onda d'Urto di sentire questa carica che parte dalle componenti giovanili. E non lo so, poi speriamo insomma che di vedere tanti giovani e tante giovani in piazza sia il 16 marzo nel momento insomma del ricordo di Davide Cesare, che ci sarà la camminata per il quartiere ticinese, ma soprattutto per il corteo nazionale che si terrà il 18 marzo con partenza a Piazzale Loreto alle 2:30. Speriamo anche di vedervi alla giornata di Sport Popolare, spero che non vi soffermiate troppo sul concerto la sera di Dax. E niente, noi ti ringraziamo e ti lasciamo al corteo, non vogliamo levarti neanche troppo tempo, grazie mille, ci sentiamo presto e ci vediamo grazie in strada. Grazie a voi, ci vediamo in piazza. Ci vediamo in piazza, grazie, ciao. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato le parole di questo compagno molto giovane e siamo molto contenti di dare spazio a voce a chi non ne ha o chi ne ha sempre di meno. I giovani stanno ritornando in piazza, come ci ha descritto lui, a Milano riguardo questa tematica qui del Fridays for Future. Speriamo ci possa essere un po' di continuità anche in ottica delle giornate di Dax, ma anche in ottica di altri momenti. Ha parlato il compagno dell'alternanza scuola-lavoro, ci sono stati anche i morti giovani di scuola lavoro e ha menzionato anche l'aggressione fascista che c'è stata ad un liceo a Firenze. Speriamo che i compagni e le compagne medi riescano a dare risposte e presenza in piazza a Milano e non solo. Ora ci ascoltiamo un brano, Tascino Siberska, Stranger Call, The Steady Tones, Kate and Tex, Rude Boy, è un Tascino remix, un brano che possiamo definire Siberska, uscito poche settimane fa, porta infatti la data del 23 febbraio 2023, è uscito sotto l'etichetta Union World Music grazie ai tre compositori Wilbur Theodore, Cole, Paul Krakowitzer e Felipe Ramos. Grazie Dynamite che mi metti sempre delle tracce molto comprensibili a livello di nomina dei testi, delle canzoni e degli autori. Noi ora ci sentiamo questa traccia e poi torniamo in diretta sempre con Radio Tagadà.